Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La pastiera napoletana non è soltanto un dolce pasquale, è qualcosa di più. È la quintessenza della tradizione, è una ventata di sapori, odori e colori. È una magica alchimia che si ottiene dopo tanti anni di manualità allenata costantemente con amore e pazienza. La riuscita dell'opera è quasi scritta nel DNA degli autoctoni. Sono Marinella, vivo a Caserta, sono copy editor e traduttrice. Mi piace scrivere e cucinare, come capirete dal racconto. La storia è questa qua. Vittoria ha 84 anni, a 13 conosce Antonio e si innamora. Pochi mesi dopo lui parte per la guerra e rimane in Libia 3 anni. 3 anni in cui non si vedono mai, ma si scrivono. Lettere lunghissime, in cui lei racconta quello che accade al fronte, mentre lui racconta quello che accade al fronte, mentre lei gli scrive come stanno le cose a casa. E nel tentativo di dargli una sensazione di normalità, gli racconta tutto. Lui un giorno le scrive quanto gli manchi il cibo di casa e lei da quel momento gli racconta nelle lettere tutti i piatti che gli preparerà quando lui tornerà a casa. Il giorno del suo ritorno però le cose vanno male, o forse vanno bene. L'emozione la sovrasta e il cibo sul fuoco brucia tutto e rimane mangiabile solo una cosa, il fricco. Sopravvive il fricco e i due quando lo mangiano hanno la sensazione di non avere mangiato mai nulla di così buono. Da allora ogni volta che in famiglia c'è qualcosa da festeggiare, il fricco preparato da nonna Vittoria in tavolo non manca mai. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi facciamo quello che facciamo sempre, raccontiamo storie, ma raccontiamo storie di cibo. La storia che vi ho raccontato è una storia, la storia della nonna Vittoria e del fricco friulano. Conoscerete il fricco, è un impasto di formaggio, patate, una roba squisita. È una storia che mi hanno raccontato quando sono stato in Friuli qualche tempo fa per i fatti miei e racconta di come alcuni piatti siano tradizione di una famiglia al punto da rievocare eventi passati, ma da essere proprio momenti di aggregazione. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, quello Twitter Voi Siete Qui R24. Se c'è una ricetta della vostra famiglia, la ricetta, che dire, della vostra vita è riduttivo, perché è proprio più quella ricetta che in qualche modo vi accomuna. 349-238-6666. Claudio scrive i pizzoccheri, Silvia scrive il cacciucco, e qua già ci sono due pezzi d'Italia. I pizzoccheri cos'è? Valtellina, chiedo scusa, il cacciucco ovviamente è Livorno. Ma oggi raccontiamo una storia che sta più a sud, che sta a Napoli, ed è la storia di Marinella. La lente dei ricordi ingrandisce sempre tutti i dettagli. Nell'album dei miei ricordi di bambina primeggia l'istantanea della Pasqua in casa della nonna. Lunga tavolata, la tovaglia buona, quella di lino ricamato, e il servizio di piatti e bicchieri delle grandi occasioni. Via vai di donne e bambini e uomini adagiati su divani e poltrone, per nulla sfiorati dall'idea di poter dare una mano a fare qualcosa. Dopo l'abbondante pranzo della tradizione, in cui quantità andava a braccetto con qualità, si svolgeva la fiera delle pastiere. La pastiera napoletana non è soltanto un dolce pasquale, è qualcosa di più. È la quintessenza della tradizione. È una ventata di sapori, odori e colori. È una magica alchimia che si ottiene dopo tanti anni di manualità allenata costantemente con amore e pazienza. La riuscita dell'opera è quasi scritta nel DNA degli autoctoni. Le uova, il latte, lo zucchero, la farina, la ricotta, il grano, la cannella, l'essenza mille fiori. Nessuno sgomita per diventare protagonista. Ogni componente ha una funzione specifica. I primi servono a preparare la base, le strisce, tutto il resto il ripieno. La pasta frolla deve risultare morbida ma non cedevole. Le strisce né troppo strette né troppo larghe. Non esistono misure scritte. L'occhio deve essere l'unico giudice severo e imparziale per la distanza regolare tra una striscia e l'altra, senza che ci sia sovraffollamento né ampie zone spoglie. Intrecciarle sulla superficie implica una grande abilità. Bisogna essere rapidi per non far spezzare l'impasto, ma attenti ad adagiarle esattamente nel punto giusto. Basta un niente per farle affondare nel ripieno semiliquido. Il ripieno, reso intenso e olfattivamente attraente dalla cannella e dall'essenza di acqua millefiori, nasconde un'insidia dietro l'altra. Usarne una quantità eccessiva annienterebbe la presenza di tutti gli altri ingredienti. L'assenza invece creerebbe un vuoto e un senso di scipitezza. Quante pastiere ho visto preparare da mia madre. In realtà io non ho mai fatto una pastiera, perché preferisco mangiare quelle di mia madre, che è molto più esperta di me, ha 53 anni di carriera pasticcera alle spalle. E la mia specialità in cucina è proprio quella dei dolci, però non entro in competizione con la pastiera di mia madre. Ogni anno, in vista di Pasqua, la sua cucina diventa un laboratorio di pasticceria. Ne prepara tante da regalare ad amici e parenti. E lei non regala solo la pastiera, regala anche la teglia che la contiene. E già, questo è uno dei pochi dolci che andrebbe regalato così come esce dal forno, per evitare che nel servirlo lo si danneggi. Eravamo in tanti dalla nonna. Tre figli e nipoti, si arrivava a 21. Alla fine del pranzo si leggevano le letterine di Pasqua, ognuno in piedi sulla sedia, pronto a dare il meglio di sé nel declamare la poesia. Dopo l'intermezzo poetico, ogni donna della casa, erano cinque in tutto, metteva in tavola la sua pastiera. Tutte belle allineate sulla tovaglia ricamata, sembravano delle miss in attesa di sfilare in passerella. In attesa sorniona e gaudente c'erano i maschi, consorti, cognati o fratelli. Tutti pronti al grande sacrificio, assaggiare una fetta di ogni pastiera e assegnare dei voti a ciascuno di loro. Ricordo ancora le frecciatine taglienti alla zia che si cimentava per la prima volta nel suo ruolo di neosposa. La pastiera rappresentava un duro banco di prova e richiedeva anni di prove e di fallimenti. E infatti la malcapitata aveva fatto in pratica quasi tutto bene. Esteticamente la pastiera faceva la sua bella figura, se non fosse stato per il suo aspetto un po' troppo brunito. Ed ecco, allora gli uomini si lanciavano in domandine caustiche del tipo: ma hai fatto il castagnaccio? Oppure: ma questa è una torta al cioccolato? Il pranzo di Pasqua durava un'eternità, penso che passassimo quasi mezza giornata a tavola, o almeno così ricordo io. Adesso non è possibile, anche perché siamo un po' tutti sparsi in varie città. Superando il seppur ridotto difetto estetico, si passava ad esaminarne il contenuto. La giuria degli esperti, titolari sul campo, iniziava, non pago del cibo già immagazzinato in precedenza, a trangugiare bocconi alla velocità di un trita rifiuti, ma con la perizia di chimici di laboratorio. La sentenza fu chiara e inappellabile: troppa cannella. La cannella era rea della inaspettata bronzatura della pastiera e anche del sapore un po' troppo deciso. La giovane zia, lanciata nell'arena delle super esperte, arrossì dalla vergogna, ma a onor del vero, le sue pastiere adesso non temono rivali. Ancora oggi mi chiedo: ma ciò che mangiavo da bambina era veramente più gustoso o sono solo preda dell'effetto nostalgia? Signora Marinella, nella foto che ci ha mandato e che trovate come sempre sul nostro sito, alla nostra pagina Voi Siete Qui, il sito ovviamente è radio24.it, ha su una camicia, anche se si intravede, se è solo il viso, è abbastanza stretta, si intravede appena al collo, è una camicia super colorata, quasi arlecchinesca. Lei ha un bel ciuffo di capelli leggermente bianchi, sembra, a vederla così, una crudelia demon simpatica. Pronto Marinella? Sì, bella presentazione. Buongiorno, come stai? Bene, grazie, sono un po' raffreddata. Dove ti trovi in questo momento? Io mi trovo a Caserta, la città dove vivo. Ok, ma dove sei? A casa? A casetta? Sono a casa, sì, sono a casa comodamente chiusa nella mia stanza e ho impedito ai coinquilini di produrre suoni e rumori di alcun genere. Chi sono, Marinella, i coinquilini? I coinquilini sono marito e figli, naturalmente. Ah, ok, perfetto, che sono di là ad ascoltare. Marinella, invece, racconta, parliamo della pastiera, perché quando ci arrivano racconti di cibo, sì. Io mi domando sempre, noi chiediamo storie che abbiano a che fare con la vita delle persone, no? E quindi quando arrivano, come dicevo, racconti di cibo, mi domando se è il cibo ad avere una parte importante nella vita di quella persona o, come mi sembra essere in realtà in questo caso, il pezzo di ricordi che quel cibo evoca. Sono tutte e due le cose. Il cibo in Campania ha una funzione aggregante, nonché nutritiva, e la pastiera in particolar modo è un dolce simbolico, quindi insieme agli struffoli che si fanno a Natale, diciamo, rappresenta è la torta della Pasqua. Sì, la pastiera è di Pasqua. Sì. E gli struffoli sono natalizi, quindi in effetti è qualcosa di simbolico, ma ha un'importanza, diciamo, prima forse ne aveva di più, adesso un po' di meno. Per me è importante, diciamo, la cucina in generale, poi non so per gli altri. Certo. Quindi è importante sia la cucina in sé che i ricordi che ricordi legati. Ma certo. Tra l'altro, Marinella, scusami, ma la storia della pastiera napoletana la conosciamo? Nel senso che Napoli, vabbè, insomma, la pizza margherita si sa più o meno da dove arriva, no? La regina, eccetera, eccetera. La pastiera si circolano più origini, andando a leggere ho visto che si parlava di questi ingredienti di cui poi ti parlerò dopo, che venivano lasciate dalle mogli dei pescatori che partivano per il mare, per cui dopo si trovò che tutti questi ingredienti furono assemblati e nacque la pastiera. Questa è una delle versioni, poi ce ne sono delle altre, ma la cosa interessante è che questo, che è un dolce molto ricco di ingredienti e ricco di calorie, che comprende la farina, ricotta, uova, sì, certo, grano bollito nel latte, fiori d'arancia, cannella, frutta candita, sì, c'è anche una simbologia legata ai vari ingredienti, cioè ogni ingrediente, cioè, ha un suo significato simbolico. Ah, un po' come la cabala. Lo spiego. Guarda, ho giusto 30 secondi, per cui se me ne dici un paio, ad esempio i fiori d'arancia sono i profumi della terra campana, okay, le uova la riproduzione, la ricotta l'omaggio dei pastori e delle pecore, e poi il grano bollito nel latte la fusione del regno vegetale con quello animale. Marinella, credo di non avere mai avuto una raccontatrice, insomma, un'autrice di storie così preparata come te. Se ti chiedessi qualsiasi, ma sei una food blogger, tu dovresti aprire un food blog, quantomeno, che si chiama. No, diciamo, io scrivo, amo scrivere, io paragono la cucina e la scrittura e dico che sono sorelle, solo che con la cucina tu hai ingredienti tangibili e con la scrittura ingredienti intangibili. Marinella, purtroppo poi ti devo salutare. Cosa fai nella vita o cosa hai fatto? Io faccio la copy editor, okay, che tu sai benissimo cos'è. Certo. E la traduttrice. Ok, ma lavori a Caserta o? Io sono autonoma. Ormai è una domanda. Giustamente, hai ragione. Sembro un anziano che ti chiede: ma dove hai l'ufficio? Sotto casa o? Marinella? No, in realtà sai che col computer. Ovviamente. Basta una buona connessione e sei dappertutto. Marinella, grazie mille davvero, perché la simbologia della pastiera napoletana mi mancava completamente. Mancava. Completamente. Grazie ancora. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Ciao. Il racconto del cibo ha un'enorme bibliografia. Basta veramente andare in una libreria per vedere quante pubblicazioni recenti e passate ci sono sulla cucina e sul cucinare. Nella mia mania di classificare, divido la cucina più o meno in tre categorie. La prima categoria è quella dove il piatto è soprattutto buono. E il massimo lì è la cucina mediterranea. La seconda categoria è quella dove il piatto è soprattutto bello. Ad esempio, certe gastronomie di Torino, non so se l'avete presente, piene di gelatine e piatti che guarda caso si chiamano In Bella Vista. E la terza categoria è quella dove il piatto è soprattutto il suo nome, al di là del gusto e della presentazione. L'ho imparato per la prima volta in un ristorante di Milano dove andavo tutte le sere quando lavoravo in teatro. Il cibo era buono e forse anche bello, ma soprattutto c'era un cameriere che era un fenomeno a dirti quello che c'era quella sera nel menù. Perché la cucina, grazie al racconto di sé, è ancora più seducente. La ricerca del nome perfetto per il piatto esiste da sempre, non è una roba nuova. Un piatto è una specie di gioco di prestigio, è un po' una figura retorica, un illusionismo. E le parole non fanno altro che esaltarlo. Per questo, ad esempio, un piatto di polenta e baccalà diventa meno rustico se lo chiami pesce veloce del Baltico con contorno di torta di mais. E anche in casa si inventano i nomi. Il finto pesce o il patatonno sono lo stesso piatto a base di patate schiacciate e tonno, ma il finto pesce è un gioco di prestigio che ti fa spalancare gli occhi. Il patatonno, invece, è quella roba che mangi a mezzogiorno meno un quarto a casa di una nonna sovrappeso. O la merenda sinoira di Torino, che poi sarebbe il brunch del pomeriggio, oltre ad essere molto buona e soprattutto un'acrobazia linguistica. Oppure ancora i piatti di rinforzo della cucina napoletana. Sottendono che in tavola vanno i piatti da vedere, quelli belli, ma poi, per nutrirsi, c'è bisogno del piatto di rinforzo. In Sicilia non è raro trovarsi nel menù la pasta con le acciughe, ad esempio, seguita dalla pasta con le acciughe a mare. E la differenza tra le due è che nella prima le acciughe sono nel piatto, insieme alla pasta, all'aglio, al pomodoro e alla mollica. Nella seconda, invece, nella pasta con le acciughe a mare, c'è tutto tranne le acciughe, che se ne stanno appunto vive e tranquille a nuotare in mare. Il rovescio della medaglia è che uno resta accecato dal nome e di conseguenza non presta attenzione a cosa si ritrova nel piatto poco dopo. Quest'estate degli amici mi hanno portato in un ristorante un po' particolare, dicevano loro. Il menù era tutto un saltimbocca allo zibello, mandarino e tabacco, o fagottini di erbe con burro al tè nero. Insomma, roba che o sei un genio oppure l'hai fatta fuori dal vaso. Io a quel punto ho scelto la zuppetta verde al pepe e cozza. Non era niente di speciale rispetto a tante stranezze, però ero curioso di sapere se quella cozza al singolare fosse un errore di stampa oppure se davvero fosse un piatto con una cozza di numero. E quando è arrivata, la cozza era bellissima. Si stagliava tutta sola su quel letto verdino di passata di zucchine e piselli con il suo bello arancione vivace. Era appoggiata su una foglia di basilico. Il guscio era stato levato e questo, mi ha spiegato il cameriere, per fare in modo che il piatto fosse più plastico, senza spigoli né suoni cacofonici rispetto ai colori presentati. Io mi sono nutrito più della presentazione del cameriere che del piatto in sé. Per fortuna i miei amici avevano a casa una pastiera fatta da una mamma napoletana e ne ho mangiate 5 fette, un po' come i parenti di Marinella. Ma è stata tutta un'altra storia. E così, alla fine della storia di Marinella, ho capito che prima la pastiera non è un dolce, è un grado di nobiltà. Secondo, fare il giudice in una gara di cucina deve essere molto divertente. Terzo, non si può fare un piatto con una cozza sola. Quarto, se sei un principiante in cucina, comincia dalle uova sode e non dalla pastiera. E soprattutto quinto, dire grazie, sono sazio, in certi contesti, è ammettere la propria inferiorità. Devo dire, io sono di Novara e quindi un pochettino piemontese lo sono, anche se non ufficialmente, però ammetto che la merenda sinoira l'ho scoperta scrivendo questa puntata, che è una tipica tradizione contadina piemontese ed è fatta di quelle robe che ci sono in Piemonte sostanzialmente, cioè un po' di vino rosso, un po' di salame o salsiccia, o salame della Duia se lo conoscete, che è il salame è più novarese che piemontese, che è quel salame molle che viene conservato nella Duia, che è un contenitore di terracotta sotto grasso, ed è quello che si usa per fare la paniscia. Vabbè, sto dicendo cose che chiaramente il siciliano e l'umbro non conoscono, mentre Miriam Lucchetti conoscerà la paniscia. Paniscia è un risotto con le verdure e il salame della Duia, la salsiccia. Ma mi sembra arrivato il momento di chiudere, considerato che abbiamo parlato solo di pastiera e di, in questo caso, merenda sinoira. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi. Vi ricordo che abbiamo messo, o metteremo comunque, la ricetta della pastiera sul nostro profilo Facebook. Lo mettiamo, Miriam. Grande Miriam, che se la punta per farlo immediatamente. Ringrazio quindi Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Miriam Lucchetti. Ringrazio soprattutto Marinella, perché la storia di oggi era la sua. E anche lui è... anche lui, anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Giovanni e vivo a Jesolo. La storia di domani è la mia e racconta di un incontro particolare in albergo. Questa è la mia storia e io sono qui.